Quanti anni d'amore sono gli anni che ho, e le donne che ho amato sono sempre più belle, non le tradirò. Ho sognato mia madre, l'ho sognata sul ponte che va a casa mia, dove io sono nato, dove non c'è più niente, giusto il nome alla via. Quanti anni d'amore sono gli anni che ho, e le donne che ho amato sono sempre più belle e non le tradirò. Ho sognato mia moglie, l'ho rivista bambina, come l'ho conosciuta, con la vita negli occhi, con i sogni nel cuore, gocce di eternità. Quanti anni d'amore sono gli anni che ho, e le donne che ho amato sono sempre più belle e non le tradirò. Ho sognato mia figlia, sorrideva felice sopra l'arcobaleno, io le ho teso la mano, ma era troppo lontano, e forse è giusto così. Quanti anni d'amore sono gli anni che ho, e le donne che ho amato sono sempre più belle e non le tradirò. Quante notti a vino, i giochi in libertà, quanto sangue per rubare un po' di vita, quanti sogni e quante false verità, fino a quando non è finita. Quanti anni d'amore sono gli anni che ho, e le donne che ho amato sono sempre più belle.